Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Come state? Chiedetelo alla vostra pancia, perché la pancia lo sa. La pancia conosce cose che noi stessi ignoriamo. Buongiorno e benvenuto al professor Silvio Danese, che è in linea con noi e oggi ci svelerà la sapienza della pancia. È ordinario di gastroenterologia presso Humanitas University ed è coordinatore dell'Immunocenter. Professor Danese, perché la pancia lo sa e che cosa sa? Buongiorno, in realtà la pancia sa quello che già gli antichi ci hanno comunicato tante volte, sa benissimo come, e lo diceva lo stesso Ippocrate, che la salute la malattia passano attraverso l'intestino. In realtà oggi la scienza ci dice che, per esempio, il sistema immunitario si allena nel nostro apparato digerente fin dall'infanzia, fin dall'inizio, con l'educazione e la tolleranza verso il mondo esterno, quindi di sicuro il primo grande baluardo per poterci proteggere. Quindi già gli antichi, come lei ha sottolineato, ci dicevano che la pancia è il centro dell'energia e adesso le ricerche confermano quanto gli antichi avevano intuito, professore. Esatto, e poi molto spesso, e questa è una frase che abbiamo sentito tante volte, l'intestino viene considerato il nostro secondo cervello, proprio perché è uno degli organi più innervati nel nostro corpo. Si calcola che ci sono oltre 500.000 neuroni e moltissime di tutto quello che è lo stress o tutte le sensazioni esterne possono essere interiorizzate tramite appunto la connessione cervello-intestino attraverso l'apparato nervoso. Per questo dovremmo imparare ad ascoltare la nostra pancia, perché la pancia lo sa, tra l'altro è il titolo del libro che lei ha scritto insieme alla bravissima Eliana Liotta. Professore, allora impariamo ad ascoltarla. È vero, anche basti pensare che nel nostro linguaggio molto spesso utilizziamo delle frasi come, per esempio, l'idea mi fa venire la nausea, mi si torcono le budella dalla rabbia, oppure molto spesso diciamo le farfalle allo stomaco. Quindi mi sta sullo stomaco. Esatto, anche questo è vero. Quindi è vero, io cercavo di aggiungere le farfalle allo stomaco per la parte anche piacevole, perché sembra che siamo sempre intorno alle arrabbiature piuttosto che anche a sensazioni piacevoli. In realtà queste espressioni di linguaggio sono un pochino la rappresentazione di quanto è radicato il rapporto con il nostro apparato digerente. È chiaro che poi il nostro apparato digerente ci parla con una serie di sintomi che sono spesso l'espressione di una eventuale patologia. Molto spesso pazienti che hanno alternanza di stipsi, diarrea, gonfiore, dolori addominali ricorrenti possono essere anche l'espressione di una sofferenza dell'intestino, non solo dell'intestino ma anche del sistema nervoso centrale. Quindi se noi impariamo ad ascoltare la nostra pancia, a interpretare anche i segni e i sintomi che ci manda, possiamo capire come mangiamo, come sappiamo gestire lo stress, quanto le preoccupazioni entrano e invadono anche la nostra vita, condizionando il nostro benessere psicofisico. Metto benessere psicofisico perché lei ha sottolineato il ruolo di secondo cervello della pancia. Noi sappiamo che i due cervelli si parlano di continuo. È vero, ma basti pensare che non è soltanto questione della interazione fra apparato digerente e intestino, ma nella psicofisicità entra anche il microbiota. Basti pensare, per esempio, che ci sono alcuni batteri, lei sa benissimo, Nicoletta, tu sai benissimo che spesso utilizziamo i probiotici in gastroenterologia, e in futuro ci saranno anche i cosiddetti psicobiotici, proprio perché per qualche motivo anche il microbiota può avere una influenza sullo stato di benessere dell'intestino e del nostro cervello. Questi sono tutti studi molto moderni e ancora non abbiamo dei dati definitivi, però è molto interessante. Professor Danese, se è vero che nella nostra pancia c'è la centralina del benessere, quali attenzioni dobbiamo dedicare quotidianamente alla nostra pancia per metterla nella condizione di lavorare per noi e di mantenerci quindi sani? Ma in genere le raccomandazioni sono sempre quelle di mangiare in maniera sana, cercando per esempio, poi soprattutto noi italiani con la vecchia dieta mediterranea siamo sicuramente molto avvantaggiati, ricordarsi di mangiare fibre e soprattutto prendere le proteine, sono molto benvenute quelle del mondo vegetale. È chiaro che tutti i cibi infiammatori, con i cibi industrializzati, con i fritti, un eccesso di acidi grassi può portare a una infiammazione silente o microscopica che nel tempo poi può portare a delle patologie più importanti. Ci sono degli studi molto belli che fanno vedere come proprio l'alimentazione nel giro di poco tempo può cambiare la flora intestinale e renderla infiammatoria o antinfiammatoria. È chiaro che questi studi sono limitati nel tempo, basti pensare che se uno espande per una vita intera un'alimentazione sbagliata, di lì ci può essere ovviamente il sensore che le patologie possono venire per questo motivo. Professore, nell'attesa dei psicobiotici, come possiamo utilizzare i probiotici? Come sceglierli e per quanto tempo utilizzarli? Ci sono delle attenzioni, delle istruzioni per l'uso? È molto importante valutare i dati clinici che sono a supporto di ogni fermento lattico che è presente in commercio. Molto spesso la parola generalizzata probiotici è variabile da integratore a integratore. Questo è un aspetto molto importante e non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Questa è la raccomandazione più importante, proprio perché ce ne sono alcuni che hanno degli studi clinici che forniscono l'evidenza per poter utilizzare verso una indicazione specifica un ceppo verso una rispetto che a un altro, e questo è molto importante poi da trasmettere in pratica clinica. Quindi bisogna leggere bene l'etichetta, il foglietto illustrativo. Esatto, è la letteratura a supporto dell'etichetta. Professore, parliamo anche di, naturalmente, di Covid. Ci sono delle manifestazioni a livello intestinale del Covid, diarrea oppure anche quel senso di nausea, pesantezza? Sì, ci sono dei dati che tra l'altro sono stati, noi essendo in Lombardia siamo stati i primi a riportare insieme ai centri di cinesi e anche insieme ai centri di New York, come le manifestazioni dell'apparato digerente possono essere presenti fino a un terzo dei pazienti infettati, con delle vere e proprie gastroenteriti, con una aumentata infiammazione intestinale, con sintomi quali diarrea profusa o nausea e vomito. Anche in assenza di febbre, professore, cioè potrebbe essere nelle forme paucisintomatiche, può essere anche solo quello un sintomo? Sì, sono stati riportati dei casi. Abbiamo pubblicato in letteratura uno dei nostri casi, per esempio, su una delle riviste più importanti di gastroenterologia, dove alcuni pazienti avevano semplicemente diarrea in assenza di altri sintomi e poi la TAC faceva vedere, per esempio, un coinvolgimento minimo a livello polmonare. Professor Danese, prima di salutarla, la pancia fa differenze di genere? Non solo dal punto di vista estetico delle dimensioni e della misurazione della circonferenza addominale, che sappiamo è diversa per uomini e per donne naturalmente, ma ci sono delle differenze di genere? In genere alcune patologie, come per esempio la sindrome del colon irritabile, è soprattutto una patologia rosa. In realtà sono tante le teorie per cui si pensa che queste patologie possano colpire di più le donne, ma ad oggi non abbiamo ancora delle risposte chiare. Potremmo parlare di ore delle eventuali teorie. In realtà le donne sono un pochino più colpite. Professore, iniziamo la giornata insieme e oggi attenzione e precauzioni per la nostra pancia, che poi naturalmente dobbiamo seguire giorno dopo giorno. Ci dà alcune indicazioni, così che magari le dedichiamo delle attenzioni che nei giorni precedenti abbiamo trascurato. Di sicuro due raccomandazioni molto semplici sono: bere 1,5 litri di acqua almeno, quindi mettersi una bottiglia vicino e finirla, l'obiettivo deve essere quello di finirla durante il giorno, cercare di consumare 5 porzioni fra frutta e verdura, e poi se si ha il tempo e massima sicurezza e in distanziamento sociale fare una passeggiata, anche il movimento fa benissimo. Perché proprio tra i fattori che influenzano i processi di infiammazione c'è il microbiota, e se il movimento invece aiuta il microbiota a restare in equilibrio, e questa è la ragione per cui ci invita a farci una passeggiata, naturalmente rispettando tutte le regole e le indicazioni che ci vengono date. Esatto, ci sono dei begli studi che fanno vedere come gli sportivi o chi fa dell'attività anche leggera abbia più biodiversità e una flora più sana. Professor Danese, grazie per essere stato con noi. Ricordo il titolo del libro scritto insieme a Eliana Liotta, La pancia lo sa. Allora ascoltiamo la nostra pancia e trattiamola bene. Professore, a presto, grazie, buona giornata. A presto. Grazie. Buongiorno. Per oggi è tutto, adesso devo lasciarvi, ma ritorno subito dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.